tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, un discorso che lascia il tempo che trova, ma pensate che senza il blackout iniziale protrattosi per 4 giornate, oggi l'Udinese sarebbe seconda in classifica. È la più bella degli ultimi 25 anni, ha detto stamane Giampaolo Pozzo, il patron del club friulano, che ha tenuto a precisare per la 1000ª o forse 23ª volta: non sono più presidente da 23 anni. Dice di essersi stropicciato gli occhi per questa squadra che ex aequo con quella di Zaccheroni, che arrivò terza, è la più bella Udinese per l'appunto da un quarto di secolo a questa parte, cioè dopo quella di Zico. Poi ha fatto dei paralleli anche divertiti su Di Natale e Zico, sul loro modo di calciare le punizioni. Ha ribadito che Sanchez, il gioiello assoluto della squadra, è blindato sicuramente fino a giugno, e ha confermato che Di Natale, così come aveva detto la scorsa estate per esempio alla Juventus, vuole finire la carriera a Udine. E Pozzo ha precisato: a Udine nessuno è prigioniero, se fino ad oggi Di Natale è rimasto lo ha fatto per una scelta spontanea. L'unico punto critico individuato da Pozzo oggettivamente, e ha ragione, è che anche con l'Inter e anche per la miglior Udinese dell'anno e forse di questi anni c'era davvero poco pubblico, poca gente allo stadio Friuli. Il problema è che le televisioni, ha detto Pozzo, hanno sovrastato la funzione dello stadio. In più il nostro è davvero poco ospitale. In inverno c'è un gran freddo, siamo esposti alla pioggia e stiamo lavorando per renderlo più accogliente, coperto e adatto al grande calcio. Un omaggio all'Udinese dunque, che è certamente la squadra del giorno per aver battuto nettamente l'Inter dopo già una serie di risultati prestigiosi, dopo aver mancato di un soffio la vittoria anche sul Milan a San Siro, segnando comunque 4 gol in trasferta. Questa è probabilmente la vittoria più bella, e allora sentiamola nel racconto di Guidolin. Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, credo che ne abbiamo giocate altre di belle, per esempio forse questa è la più bella insieme a quella che abbiamo giocato con il Palermo, peraltro con un altro sistema tattico. È un momento che stiamo bene, abbiamo salute, abbiamo entusiasmo, ci vengono le cose con una certa facilità, non ci demoralizziamo se subiamo un gol, continuiamo a sviluppare il nostro gioco, siamo abbastanza imprevedibili, perché, ma questo è un mio segreto, e speriamo che duri, cosa posso dire? Penso che la classifica è bella ed è secondo me anche in linea con le potenzialità della squadra. Se saremo bravi la difenderemo, la potremo anche migliorare se possibile. L'importante è giocare bene, guardare le partite una alla volta, crescere dal punto di vista delle nostre conoscenze e cercare di migliorare giorno per giorno. Sì. La classifica è bella, avete sentito, ha detto Don Francesco Guidolin, no? Che insomma, ha questa attitudine soprattutto nei momenti belli al, diciamo, all'ecumenismo, l'ha sempre avuto, però è un oggettivamente, quando è messo nelle condizioni di lavorare sul serio, è un signor allenatore. Omaggio a Guidolin. Beh, arrivano anche via SMS. Stefano da Udine scrive: ieri noi a Udine ci siamo stropicciati gli occhi per lo spettacolo visto in campo e per la personalità e la velocità e la qualità. A tratti sembravamo un piccolo Barcellona. Beh, ci può un piccolo, d'accordo, però ci può stare, anche perché le caratteristiche fisiche e dinamiche e di palleggio di due giocatori come Di Natale e Sanchez, che sono poi non sono gli unici ma insomma sono i crack della squadra, indubbiamente ricordano quella dei grandi talenti del Barça. Già ieri aveva reso omaggio all'Udinese anche per spiegare la sconfitta della propria squadra, Leonardo. Poi stamattina è arrivata un'altra voce interista, le sentiamo tutte e due, cominciamo da Leonardo. Ma innanzitutto l'Udinese molto bene, credo che sono riusciti a fare, noi conoscevamo bene l'Udinese, credo che sono riusciti a fare tutto quello che era previsto, principalmente nel secondo tempo. Il primo tempo credo che è stato molto equilibrato, siamo riusciti ad andare in vantaggio in un campo molto difficile. Dopo sinceramente possiamo anche analizzare tutta la partita, ma credo che 3 gol diciamo su palle native, quello alla fine è stato un po' come sono venuti i gol. È vero che sono stati anche i contropiedi, sono state anche azioni fatte bene dal Udinese, credo che anche noi, dopo sono sempre episodi che possono determinare una partita, però va tanto merito specialmente al secondo tempo l'Udinese nella gestione della partita, con giocatori molto veloci sicuramente ci ha messo in difficoltà in qualche situazione, però non vedo una cosa, diciamo un problema, credo che una sconfitta ci sta. Credo che dopo una serie positiva di vittorie è successa una sconfitta che sicuramente non cambia, diciamo, il nostro modo di pensare. A Altri complimenti sono arrivati stamane dal seminario USSI, cioè dalla stampa sportiva italiana a Coverciano, a cui hanno partecipato una serie di personaggi, tra cui il presidente dell'Inter Moratti. Sentiamo. Io credo che ieri abbia giocato veramente bene l'Udinese, cioè noi siamo partiti anche bene, quel gol dava un'impressione della squadra che ormai avesse preso in mano la partita. Poi c'è stata una gran parata del portiere dell'Udinese che è riuscito a contenere il risultato, dopodiché l'Udinese si è messa a giocare in maniera tale che, devo essere sincero, non era facile per nessuna squadra, penso, non resistere ai loro giocatori, ai loro singoli e al gioco di squadra. Quindi do merito all'Udinese per la vittoria di ieri, e poi naturalmente un po' stanchi i nostri saranno. Campionato 20 squadre mette in condizione di fare degli sforzi eccessivi da parte di tutti, credo. Stanno tutti giocando a Ciapanò, minimizza invece Vittoria da Milano. A prescindere dai punti in classifica non c'è una squadra padrona, è vero. Beh, insomma, no, c'è una mezza squadra padrona perché Milan comunque ha un vantaggio significativo, e mi pare che al di là poi brillantezza o non brillantezza, mi pare che si stia arricchendo di soluzioni alternative che credo da qui in avanti saranno determinanti, nel senso che mi pare per esempio che il Napoli, con tutto il rispetto e l'ammirazione per quello che ha fatto fino adesso, di alternative ne abbia poche. L'Inter ne ha, ma non in maniera, e comunque quelle che ha già sperimentato, insomma, non sempre sono alternative ad alto livello. Ne ha la Roma di alternative, certamente, e ne sta scoprendo il Milan, che adesso ha provato Thiago Silva centrocampista, Merkel è un giocatore, un giovane che per carità è perfettibile, però si sta affermando, sta trovando spazio, adesso è arrivato un giocatore dell'Udinese, davanti il Milan ha tantissime risorse, e quindi credo che alla fine il percorso, il Giro d'Italia lo si vincerà con le alternative, con la possibilità di cambiare e di non spremere sempre gli stessi giocatori. Napoli e soprattutto Roma, scrive Gianluca da Pavia, sono tenuti in piedi dagli arbitri. Beh, insomma, il Napoli ieri a Bari non direi, la Roma col Cagliari mi pare che il 3-0 non sia granché discutibile, ci sono come sempre insomma episodi che possono essere visti in un'ottica o nell'altra, ma da qui a dire che Napoli e soprattutto Roma sono tenuti in piedi dagli arbitri, sì, insomma, è un messaggio che trovo leggermente nordista, anche perché questa è un'ottica a cui ci possiamo dover preparare. Sembrava che questo campionato fosse un classico derby prolungato tra Inter e Milan in partenza, e poi un po' alla volta invece tra Milan e Inter in ordine di preferenze e di credibilità, con eventuale inserimento della famosa Juventus, che invece al momento sembra un pochino al palo, e invece mi pare che sia Napoli che Roma, anche esaminando i punteggi che hanno attualmente in rapporto un anno fa. Lo facciamo subito dopo il primo intervallo per sentire come va sulle strade. Allora, tra le altre curiosità di giornata che mi segnala Franco Piantanita, c'è per l'appunto quella dei punteggi in classifica rapportati a un anno fa. Il Milan, che resta imbattuto nelle sfide casalinghe col Cesena e che tra l'altro ha rivinto per 2-0 a distanza di 20 anni contro il Cesena, che per l'appunto da 20 anni non si presentava a San Siro, il Milan ha un punto in più dello scorso anno, ma vanta anche miglior attacco 37 gol e miglior difesa 18, e questi sono due dati molto significativi. Il Napoli ne ha 3 in più dello scorso anno, la Roma, attenzione, perché ha gli stessi punti di un anno fa, quando era staccata di ben 11 dall'Inter e poi riuscì nel sorpasso, subendo poi nel finale il conto sorpasso, mentre l'Inter è sotto di 14 rispetto a un anno fa, e questo mi sembra un altro dato molto molto significativo. Poi ci sono altri numeri che troveranno spazio nel corso della citazione di altre squadre, di altre realtà, di altre situazioni anche che riguardano la salvezza. Per esempio il Brescia è la squadra che più crolla nella ripresa. Il Brescia ha perso 17 punti nei secondi tempi ed è la squadra che ne perde di più dell'intera Serie A, mentre Simeone è l'unico dei 5 allenatori subentrati finora in corsa, sono 5 cambi di panchina in Serie A, è l'unico a non avere vinto all'esordio. C'è Lina Franco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Volevo chiederle, a me ha anticipato un suo ascoltatore via SMS, effettivamente l'Udinese, con tutti le dovute proporzioni, sempre di vedere un piccolo Barcellona, perché appunto Sanchez e Di Natale sono due giocatori straordinari che fanno un grande movimento e sempre con le proporzioni dovute sembrano via da una parte e Messi dall'altra. Senza parlare poi di Arnero a sinistra e di Isla, che sono i due esterni che continuano a correre per 90 minuti. Io sono un abbonato del Milan e devo dire che io mi diverto a vedere giocare due squadre in particolare in Italia, Udinese e Palermo, quando il Palermo è al completo, perché il Palermo non è al completo, e se fosse al completo con Piniglia e Miccoli davanti sarebbe un bel vedere. Grazie, l'ascolto per radio. Cagliari, quando i Cagliari di Donadoni dell'ultima versione di queste ultime giornate, che non ha la stessa qualità complessiva, però ha un bel modo di giocare, di far calcio, elementi interessanti, ha freschezza, ha dinamismo e, insomma, ed è in questo momento in grado di creare problemi a chiunque. Ne ha creati molti alla Roma nella prima mezz'ora della partita di sabato sera, e poi invece si è un po' alla volta smarrito, ma ha buoni giocatori e lo testimonia la classifica, che con l'aiuto di Donadoni si è decisamente rinvigorita. Massimo ha chiamato dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno a tutti, salve Garanzini. Dunque, io voi riflettono, sento parlare appunto del mercato da Juventus di riparazione, mi sento di riparazione. La Juventus, parlano anche di extra budget, secondo me di soldi ce ne sono stati messi tanti. Il problema è che hanno scelto male. Secondo me dovrebbero ingaggiare gli osservatori del Palermo o dell'Udinese, che trovano dei Ilicic, dei Pastore, dei Cavani, poi Armero, e potrei andare avanti, cioè giocatori di altre scuole non italiane, che però poi vengono valorizzati, perché comunque sia hanno una cifra tecnica. Tutto lì, invece noi prendiamo il Thiago, il Poulsen e rimaniamo dove siamo. Le leggo, facciamo così Massimo, le leggo un corsivo apparso stamane su Repubblica e firmato da Maurizio Crosetti, dal titolo Largo i Reduci. L'ho trovato particolarmente divertente, ma anche non cappato in aria, cioè anche riscontrabilissimo nei fatti. Scrive Crosetti: va bene la coerenza, ma anche se uno la chiama la vecchia signora, non è che sia obbligata per questo a mettere sempre il plaid sulle ginocchia e la dentiera nel bicchiere. Per dire, se davvero alla Juve arriva pure Barzagli, i campioni del mondo reduci, e mai parola fu più azzeccata nel Mondiale di Berlino, diventano addirittura sei. Appunto l'aitante difensore ex Palermo e Wolfsburg, 30 anni, nonno del Piero, 37, zio Grosso, 34, zio Toni, 34, anche se pare una bestemmia veneta, zio Toni, non è male. Oltre agli attempati Buffon 31 e Iaquinta 31. Se le ingiurie del tempo non lo impedissero, si potrebbe chiedere una mano pure a Ravanelli, meglio di Amauri anche adesso scommettiamo, e persino a Boninsegna. Con Bettega ci aveva provato, l'errore fu dargli una scrivania anziché il pallone. Poi non è il caso di ricordare quello che qualunque studente di quarta ginnasio sa bene, cioè che in latino Juventus vorrebbe dire gioventù. Lo sa di sicuro anche il ragazzo Andrea Agnelli, presidente che sta costruendo un garage pieno di auto usate con la maglia bianconera, la gloriosa Senectus. Sì, non lieve, ma ripeto, non infondato, perché la sensazione è davvero quella. Ora, magari non tutti e non in tutti i cicli possono avere osservatori, possono avere contatti che ti portano a scoprire tutti i talenti che stanno scoprendo l'Udinese e il Palermo. Attenzione a un altro parametro, Massimo: l'Udinese e il Palermo possono permettersi di scommettere su un giocatore e magari di insistere nei primi tempi, quando magari ne combina qualcuna che non va. A Torino con la maglia della Juventus è un tantino diverso, e questo è sempre un problema per le grandi squadre italiane, soprattutto italiane, perché i grandi club all'estero, soprattutto quelli inglesi, questi rischi li corrono, i tedeschi non ne parliamo, li corrono ben volentieri. Ma insomma, effettivamente qualche perplessità c'è. Angelo, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, io avevo chiamato per fargli questa domanda. Anche ieri sera abbiamo visto uno spettacolo indegno del calcio italiano, del calcio in genere. A San Siro è andata in scena una partita su un campo, devo dire, di poco vergognoso. Cioè, anche lo stesso Caressa, che ieri faceva la telecronaca per Sky, cioè faceva delle battute veramente sul terreno di gioco che era stato tinto con gli aghi di verniciato, ma sono anni che San Siro è verniciato. Poi San Siro, mi scusi, no, poi la lascio. San Siro ha lanciato una moda che è quella della vernice sul campo per far sembrare che quella sia erba, cioè che quella schifezza, quel raggrumato che sembra un riporto. Tinto di verde in maniera che sembri davvero erba. L'hanno copiato da altre parti. Poi le leggo una mail che ho ricevuto stamattina che mi sembra documentata in materia. Dicami, scusi che non ho corretto. Comunque, insomma, al di là di questo, cioè, noi come spettatori paghiamo un abbonamento per vedere uno spettacolo. E questo è quello che ci viene proposto, cioè dallo stadio più bello d'Italia, perché in realtà questo è quello che abbiamo. San Siro è lo stadio più efficiente d'Italia per il gioco del calcio e ci propone uno spettacolo indegno. Cioè, qui io vorrei fare un appello anche a voi giornalisti, ai media, cioè dobbiamo sensibilizzare di più questa cosa, cioè siamo indietro anni luce rispetto ad altri paesi europei. Sì, io credo che oggi se vogliamo rivolgere un appello alla libera stampa, prima del colore del campo e della qualità del campo di San Siro ci sarebbero altri argomenti anche nei paraggi, ma insomma quello che lei dice è certamente vero. Giulio Torelli ha scritto stamattina in una mail che arriva da Parma, dice: una volta si diceva che nel periodo invernale potevano emergere le squadre più fisiche perché i terreni si appesantivano. Oggi abbiamo almeno tre terreni di gioco, che sono Bentegodi, San Siro e Marassi, in rigoroso ordine di indecenza, che sono impresentabili. Su quei terreni il calcio non è calcio, gli infortuni sono all'ordine del giorno. E nota tra parentesi che sono 5 gli infortunati tra Sampdoria, Juve e Milan Cesena, e in buona parte di essi credo che il terreno abbia come minimo dato il suo contributo. È un insulto allo spettacolo che gli attori dovrebbero provare ad offrire per un pubblico che col freddo di ieri dovrebbe essere almeno rimborsato dal prezzo del biglietto di gare scialbe come quelle di Verona e di Genova. Non abbiamo il calcio più bello in Europa, ma nemmeno ci aiutiamo per averne uno decente. Il problema è proprio questo, io credo che questo sia un paese che non si aiuta più nemmeno in queste piccole cose, fermo restando che ho letto da in una dichiarazione di Allegri che il terreno verrà rifatto, verrà rizzollato, come si dice, non lo so, come in settimana, che quindi insomma, un miglioramento ci sarà, però è il solito palliativo rispetto a 20 anni di durata, se parliamo di San Siro, di questo problema, 20 anni abbondanti, perché tutto cominciò con la celeberrima copertura totale dello stadio per i mondiali del 90. Aldo da Siena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Intanto le faccio gli auguri perché non sono riuscito a prendere la linea prima di buon anno. E poi le volevo fare due domande tecniche, perché siccome la ritengo un grande intenditore di calcio. Allora, la prima è, io sono milanista, secondo me Robinho è un grande giocatore, grandissima tecnica, grandissima classe, e poi io non ho mai visto un giocatore con una tecnica che in maniera correre per 90 minuti. Il problema è che quando arriva davanti alla porta, questo su 10 volte 9 le butta fuori, e non c'è nemmeno da dire che siccome è stanco perché corre tanto, perché ieri sera dopo 9 minuti un'occasione che l'avrebbe fatta anche un ragazzino di Serie C, lui se la mangiò, proprio mangiata dopo 9 minuti. E poi gli volevo chiedere, secondo me, cioè, quello che ne pensa lei, volevo sapere se il Milan avesse avuto Ibra, secondo me avrebbe 15 o 20 punti meno, perché quello è un fenomeno. Io non credevo fosse forte, e credo che incida molto di più lui nel Milan che, ora mi scusi se dico un'eresia, ma Messi nel Barcellona. Mi spiego: se il Barcellona non avesse Messi, su per giù avrebbe gli stessi punti. Su per giù, ora Messi è un fenomeno, è la ciliegina sulla torta. Dai Aldo, mi scusi che ci sono molti ascoltatori in attesa, il suo concetto è molto chiaro. Io credo che mettersi a fare questi paralleli, cioè dire questo incide di più di quell'altro in quell'altra squadra eccetera, tra l'altro Ibrahimovic a Barcellona c'è stato qualche parametro indiretto, lo possiamo ricavare anche quello, e comunque questo sinceramente mi sembra poi abbastanza sterile come conclusione. Robinho è un giocatore sorprendente a parer mio, proprio per la disponibilità al sacrificio atletico, perché in genere i giocatori di quel talento non si danno così tanto, no? E lui invece lo fa, ha cominciato, io ricordo Ricordo che la prima partita che giocò davvero a tutto campo a questa maniera, se non sbaglio, fu a Auxerre in Coppa, in una partita difficile tra l'altro, o sul campo dell'Ajax, non mi ricordo, comunque una Ajax direi, fuori casa. Una partita di sofferenza più che di qualità e di divertimento, in cui Robinho interpretò davvero il ruolo quasi dell'ala tornante di un tempo. Dopodiché lui ha le qualità. Brera avrebbe detto che non arriva irrorato, non può arrivare irrorato davanti alla porta per quanto brucia e consuma prima. Ora è vero che al nono minuto si dovrebbe essere freschi, però gli scatti prolungati si pagano un po' in tutte le fasi della partita, e poi c'è chi la freddezza ce l'ha e chi no. È strano, indubbiamente. Non c'è dubbio che se Robinho riuscisse a trasformare tutto quello che crea, sarebbe un giocatore ancora più forte di quanto già non sia. Tanto di cappello anche a Patron Pozzo, scrive Massimo da Trieste, perché dopo le quattro giornate iniziali di campionato c'era il rischio di esonerarlo Guidolin. In effetti un altro ascoltatore gli fa notare che Pozzo quest'anno si è comportato come Cellino, udite, incredibile davvero a dirsi, che 5 anni fa resistette addirittura a 5 sconfitte consecutive di Allegri in avvio di campionato. Poi il Cagliari di Allegri fece quell'anno una stagione, un ritorno strepitoso, buono anche lo scorso anno, e tra l'altro Allegri al Milan proprio perché si mise in evidenza in quelle 2 stagioni, ma in particolare in quella prima. Spesso e volentieri la pazienza dei presidenti nella disavventura iniziale è uno dei motori poi dell'annata. C'è in linea il direttore dello stadio di San Siro, Pierpaolo Belotti, che ha chiamato per intervenire. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno. Dica. Senta, io volevo intervenire perché già ieri sera ero un po' critico sulla cronaca che ha fatto non tanto Caressa quanto Massimo Mauro, sì, che ha continuato per tutta la partita a parlare male del campo, con tutte le ragioni del caso, però gli addetti ai lavori, come sono io ad esempio, sanno, e forse Allegri ha dimostrato di essere un addetto ai lavori, che giocando ogni 3 giorni i tempi per le rotolature non ci sono. Questo è vero. In 3 Milan le posso garantire che spendono circa 1 milione di euro all'anno, e l'ultima rotolatura è stata fatta poco prima di Natale. Lo stadio è quello che è, tutti sappiamo i problemi dell'aria, della copertura, dell'umidità, del clima di Milano, eccetera, eccetera. Per cui mi piacerebbe che quando si parla di San Siro si facesse, e non mi riferisco alla sua trasmissione, una valutazione oggettiva dei, sì, fatti, e non colpevolizzare in 3 Milan, che anzi direi, no, che, certo, che veramente ci lei dice, lei vorrebbe che si tenesse conto giustamente dell'handicap iniziale, e cioè di quella, esatto, copertura, esatto, che da, lo so, esatto, non è solo, non è solo, no, perché no. Io da vecchio tra virgolette milanese mi rendo conto, posso dire che ad esempio la temperatura a livello suolo, l'umidità a livello suolo è sempre intorno all'85-90%, certo. Funziona diciamo 24 ore su 24 un sistema di drenaggio e di riscaldamento sotterraneo che sono costati una fortuna. Quindi l'Inter e il Milan sicuramente fanno il possibile, certo. Mi piacerebbe magari ogni tanto, volta avrò modo di dire anche a Sky, che qualcuno fosse un filino più obiettivo, forse più dentro le cose. Sì, sai direttore qual è, e poi la ringrazio del suo intervento civilissimo e documentato. Sa cos'è probabilmente? Che in una città che è passata alla storia del paese per la sua efficienza, prima di ogni altro parametro probabilmente, no? Il Keringman, no? e l'efficienza erano i 2 parametri milanesi. L'idea che da 20 anni c'è questo problema che si trascina, sia pure con tutta la buona volontà di chi ci gioca, rende, sono come quelle, no, non dico tragedie, ma insomma quei piccoli problemi eccetera, che a un certo punto poi diventano inevitabilmente comici quando si ripetono per troppo tempo. Sì, potrei aggiungere una cosa, sono d'accordo su tutto, ma ad esempio l'Amstel Arena, così decantato, grande stadio eccetera, ridolla 5 volte all'anno, sì, e sì, ci gioca una squadra sola, quindi alla fine quello che io voglio dire è, se a San Siro non sia mai ci giocasse una squadra sola, noi avremmo probabilmente il campo migliore di quello olandese, ecco. Però per fortuna, dico, giocano 2 squadre ad altissimo livello, con partite, certo, diciamo che ci invidiano tutti, a quel punto lì noi per avere il campo al top, guardi, volevamo risolare settimana scorsa, poi con i problemi della Coppa Italia si qualificano o non si qualificano, certo. Giocano a Milano, non giocano a Milano, siamo sempre lì col cerino in mano ad aspettare che succede. Stiamo risollando da stanotte. Quindi, e quindi perlomeno lei ci ha dato anche una, ci ha confermato una buona notizia anticipata da Allegri. Stiamo risollando da stanotte, saremo pronti giovedì. Quindi con le prossime, e probabilmente risolveremo di nuovo prima dell'inizio della fase di Champions League. Addirittura, quindi prima del 20 di febbraio. Sì, sì. Gesù. Sì. Quindi, Gesù. Quello che voglio dire è questo, applauso all'Inter e al Milan. No, certo, certo, no, direttore. Dovrebbero veramente capire gli sforzi che fanno queste due società per avere il campo. C'è un altro detto, se lei mi dice che avete risollato stamane e stiamo parlando del 24 gennaio e che probabilmente ne rifarete un'altra tra meno di un mese, allora c'è un altro detto milanese che mi torna in mente, che è quello della fabbrica del Dom, perché se non è una fabbrica del Duomo questa, io credo questa di no. È proprio la fabbrica del Dom. La fabbrica del Dom. La ringrazio, direttore. Grazie a lei. Buongiorno. Andiamo a Venezia, da Cristian, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Niente, io volevo dire in che percentuale può giovare l'anticipo che la Juventus ha sulla costruzione dello stadio riguardo alle altre squadre, diciamo, in termini per colmare il gap che ha con le altre grandi di organico, diciamo. Non lo so, io leggo, non ne ho idea, bisogna valutarlo, perché per l'Italia è un parametro nuovo. Ora, che questo stadio dia e darà una consistenza patrimoniale ben più solida e ben più rassicurante alla società Juventus, questo non c'è ombra di dubbio. Che questa sia la panacea di tutti i mali, non lo so, sinceramente non so dire quanto poi questa solidità economica, finanziaria e comunque di bilancio si potrà riflettere sulle risorse a disposizione, perché poi al tifoso, per carità, tifoso fa molto piacere l'idea di andare in uno stadio di proprietà, ma poi quello che gli interessa sono i centravanti e i rifinitori, credo, no? A occhio. Grazie Cristian. Ancora un ascoltatore e poi torniamo a ripassare qualche voce di ieri. Enzo, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno a lei Gigi. Senta, una domanda telegrafica, sempre a proposito della copertura dello stadio di San Siro. Mi può spiegare, ammesso che non sia già stato spiegato, quali motivi impediscono di fare un campo sintetico come a Novara? L'ascolto per radio, la ringrazio. Non può ascoltare me, Enzo, perché io non glielo so certamente dire, io non sono in grado di rispondere a questo genere di domande, queste sono programmazioni. Lei ha sentito intervenire il direttore dello stadio di San Siro, tessere l'elogio delle due società per quanto provano a fare, ma ammettere lui per primo che questa situazione è insostenibile, perché sono 20 anni che si trascina e io trovo, indipendentemente dagli sforzi che tutti fanno, dagli addetti alle società, io trovo semplicemente ridicolo che una città come Milano in 20 anni non abbia risolto un problema come questo, perché ripeto, il mito dell'efficienza milanese era il biglietto da visita della città. Se in 20 anni ci si è ridotti cioè se in 20 anni la città si è ridotta a presentare un terreno di quel genere e a verniciarlo per dare un po' meno nell'occhio, o forse per dare nell'occhio in un'altra maniera, lei capisce che non siamo lontanissimi dalla canna del gas, così a occhio e croce. Qualcuno ha parlato di Ibrahimovic e del suo essere decisivo, ho letto molti messaggi prima con Ibrahimovic, con i centravanti scambiati ieri sera vinceva il Cesena. Beh, insomma, bisogna poi sempre prenderle con le molle questi discorsi un po' oratoriali, secondo me, no? Perché poi bisogna alimentarli i centravanti, soprattutto quelli come Ibrahimovic che hanno potenziali enormi, fisico, qualità, tutto quello che vogliamo, ma che insomma i palloni però bisogna darglieli, perché andarseli a prendere entro certi limiti, quindi vabbè. In ogni caso sentiamo Ibrahimovic su questa vittoria. Questo significa un grande squadra, che abbiamo giocatori fuori che non giocano sempre ma entrano e fanno un buon lavoro. Poi la squadra ha fatto bene, abbiamo vinto. Poi Cesena è una buona squadra, compatti e giocano bene anche. Noi dobbiamo continuare con il nostro ritmo come abbiamo fatto fino adesso e giocare il nostro gioco e con qualità, e poi quello che succede dietro è normale che ti dà un po' di vantaggio, ma più punti che prendiamo più è vantaggio. Ma allora Marassi che problema c'è? Domanda Luca da Arese. La Liguria vanta il miglior clima d'Italia. Beh, insomma, piano con la Liguria che vanta il miglior clima d'Italia. È un clima migliore di quello milanese, ma prima di essere migliore d'Italia ne corre. A Marassi c'è un altro, ci sono altri generi di problemi. Comunque noi siamo indietro, cioè, ripeto, Milano come paradigma dell'antica e storica efficienza di questa città e di questa regione, però siamo indietro come sistema, stavo per dire paese, come sistema calcistico, sentiamo continuamente, ce lo ricordava il professor Pincolini ancora l'altro giorno, lui ha ha preparato atleticamente le squadre di russe in quest'ultimo periodo, l'altro anno lo Lokomotiv Mosca ci ha raccontato che loro fanno trasferte in Siberia, dove giocano partite a 10, 12, 15 sotto zero, dove le temperature scendono ancora più giù e dove ci sono campi non sintetici, campi riscaldati che fanno invidia ai nostri, non è una grande impresa, ma insomma campi tenuti in condizioni perfette, stiamo parlando di località all'avanguardia come la Siberia, e noi invece non riusciamo a fare questo nell'Italia del 2011, ma anche del 2010, ma anche del 2009, eccetera. Un lungo sms firmato Michi. Io leggo soltanto l'inizio. A me il progettista dello stadio di San Siro, chiunque sia, fa venire in mente quei geometri all'accetto alla qualunque, eccetera. Guardi che il progettista non dello stadio di San Siro, che esiste da cent'anni, ma della ricopertura dello stadio di San Siro, che è all'origine di questo disastro, ha un nome e un cognome, è l'Edil Nord di Milano. Guardi che non è che non ci fosse il biglietto da visita nel progetto e poi nei lavori. È l'Edil Nord di Milano, questa è storia, non è cronaca e non è nemmeno pettegolezzo. È storia anche quella che ci racconta ogni giorno Nicola Filippone, che chissà cosa ha trovato oggi per il 24 gennaio. Sembra ieri. 24 gennaio 1954. Sotto la neve di San Siro, l'Italia batte l'Egitto per 5-1, guadagnando la qualificazione alla fase finale dei mondiali. È un successo che matura nella ripresa, dopo che il primo tempo si era chiuso a sorpresa sull'1-1. Principale protagonista tra gli azzurri è il capitano Giampiero Boniperti, autore di una doppietta. Ma la gara sarà ricordata soprattutto perché per la prima volta l'Italia va in TV, sul programma nazionale che aveva iniziato le trasmissioni esattamente 3 settimane prima. Debutta quindi come telecronista una voce già nota al pubblico radiofonico, quella di Nicolò Carosio, affiancato da Carlo Bacarelli e Vittorio Veltroni. Quindi una data storica vera questa, perché la prima telecronaca, Carosio era un celeberrimo radiocronista da 20 anni, credo esattamente da 20 anni, perché mi pare avesse debuttato a Highbury per uno storico Inghilterra-Italia 3-2. Con 2 gol di Meazza, credo di ricordare, ed era il 34, subito dopo il mondiale italiano, nell'autunno successivo al primo titolo mondiale dell'Italia. 20 anni dopo, il 24 gennaio, questo debutto invece ai microfoni della TV in una giornata gelida, in cui appunto l'Italia batté per 5-1 l'Egitto. Bravo Nicola Filippone, come sempre, ad andare a trovare questa data. Enzo da Altamura dice: caro Garanzini, a chi dobbiamo scrivere per far sì che il programma cambi di durata da 1-2? Comincia a scriverlo a me, Enzo, che le rispondo io con poche ma sentite parole, e poi vediamo cosa ne pensano gli altri, ma prima deve passare sul mio, non dico una brutta parola, ma insomma diciamo che deve passare su di me. Giancarlo da Milano, buongiorno. Garanzini, buonasera. A lei. Ascolti un attimino. Ho l'impressione che abbia perso una grande opportunità, visto che aveva il direttore dello stadio San Siro al telefono, perché il suo intervento è stato pagato, per carità, ha parlato dei problemi, delle rizzollature, però volevamo magari cogliere l'occasione per sottolineare un attimino la situazione tragicomica veramente del prato verniciato, perché intanto vorrei dire, sulla tossicità di queste vernici converrebbe anche ragionarci un attimino sopra. Ci sono giocatori magari con ferite aperte che in un tackle hanno la vernice vabbè, se vogliamo drammatizzare ad ogni costo, sì. No, io sono lieto di... si tratta di vernice. Poi il discorso delle zolle. Lei sa benissimo che nei punti di intersezione tra le zolle si creano degli spazi molto pericolosi per i giocatori. Certo. Il direttore ha paragonato prati inglesi, stadi olandesi, ma lei immagino che li avrà anche calpestati quei campi. È un paragone che non sta in piedi. Lì ci sono veramente degli stadi con dei prati favolosi e non ci sono queste abitudini a dipingerli. Giancarlo, io ho dato semplicemente spazio al direttore dello stadio San Siro in Milano, che chiedeva un diritto di replica, si è capito perché, no? Anche per ragioni di bandiera, per dire che per dire la sostanza del suo intervento era: questa situazione non è ascrivibile e non è imputabile alle due società che invece stanno facendo il possibile. Mi sembra che questo fosse il senso dell'intervento. Questo punto di vista. Ho capito. Dopodiché mi pare si sia consegnato disarmato questo direttore, no? Lei lo avrà sentito. Sì, e quindi cosa fai? Gli infierisci? Lui non è mica le vernici, ammesso che ancora le. Cioè, io credo che ormai siano arrivati a vernici, avendo San Siro dintorni, appunto, abbastanza esperienza ormai di vernici, credo che siano arrivate a quella di ultima generazione, che non possono comportare problemi per nessuno, ma sono anni che si usa queste vernici. La prima denuncia arrivò, secondo me, aspetti che le dico, a che tempi giocava Rivaldo nel Milan? Parliamo di 2003-2004, quegli anni. Io ricordo un derby in cui alla fine del derby, per l'appunto, Rivaldo esplose dicendo: io c'ho tutti i calzoncini. E arrivò in sala stampa e diceva: tutti i calzoncini verdi, non va più via, cos'è sta storia? E alcuni interisti che lo stavano ascoltando a loro volta rincararono la dose, Vieri insomma ed altri, e ricordo che da lì venne fuori questa cosa, che l'allora direttore, che non era questo, tentò disperatamente di negare. E invece poi non ci fu nulla da fare. Cioè, d'altra parte, lì o gli metti la cazza sulla telecamera, come si fa magari in altri casi, oppure dai una verniciata al prato. La copertura della Edil Nord 20 anni fa ha distrutto l'habitat, ha distrutto la possibilità che l'erba possa essere mantenuta e possa ricrescere normalmente per procedimenti naturali nello stadio di San Siro, e questo purtroppo non da oggi. Torniamo a qualche protagonista di ieri, per esempio a Di Vaio. Io credo che l'incidenza che Di Vaio ha per il Bologna sia almeno pari, lo dicono i numeri, a quella che Ibrahimovic ha per il Milan, e magari pure di più. Abbiamo riportato la distanza a più 6, e questo è un buon margine per giocare tranquilli, e perché comunque abbiamo un periodo, adesso abbiamo due partite difficilissime, perché giochiamo con la Roma, che è seconda, e poi giochiamo con l'Udinese, che ho già vinto con l'Inter, dunque abbiamo due partite complicate, però ci arriviamo con fiducia e adesso dobbiamo essere bravi a continuare così. Era molto sentita la partita e mi dispiace per questo, e chiedo scusa, perché sicuramente non abbiamo fatto una bella figura, però purtroppo sono cose, gli animi quando sono caldi sono cose difficili da trattenere, e dovremmo essere più bravi magari se dovesse risuccedere. Bruttissima scena in effetti, quella finale di Bologna. Poi c'è chi ne porta più responsabilità e chi meno, però veramente un pessimo finale da parte un po' di tutti, perché alla fine quando assume quelle proporzioni è un pochino colpa di tutti. Tommaso ha chiamato da Rimini, buongiorno. Buongiorno, senta, sono stato sollecitato a chiamarla perché penso che la pericolosità degli idrocarburi contenuti nei solventi adoperati per le vernici siano altamente patogeni. Penso che la SLA, che è una malattia da degenerazione di tipo nervoso che ha colpito i calciatori, sia la malattia patognomonica di questa tossicità provocata dall'uso di vernici con solventi altamente cancerogeni. La cancerogenicità e la patologia proviene dal fatto che gli idrocarburi sono altamente specifici per i lipidi, per i grassi contenuti nei tessuti nervosi. Di conseguenza la respirazione la respirazione che avviene soprattutto di notte, quando la dispersione di questi gas in soluzione gassosa sono difficili da disintossicare attraverso la biosfera, sono assorbiti in una maniera quantitativa, in una maniera. Tommaso, sto sulla fiducia rispetto a quello che lui dice. Le faccio però notare una cosa: i casi di SLA conosciuti sono casi che appartengono a un'epoca in cui non c'era ancora l'uso di verniciare i campi per farli sembrare più belli alle telecamere. E quindi, anche se io questa associazione l'avevo già sentita fare e l'avevo letta, mi sembra che vada presa discretamente con le molle, perlomeno per i parametri di cui siamo a conoscenza in generale, e sono a conoscenza io in particolare. Grazie comunque per il suo intervento, grazie a Fabio Cantadoni in regia, a Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio.